Zolt. Fulminati in azienda. Marta, dammi una mano che non ce la faccio più, guarda. Cosa c'è, Centri? Cosa c'è? Lo so, sono tempi duri, ma non ti intristire, sorridi ogni tanto. Se sorridi ti si rilassano i muscoli della faccia, guarda, ti distende. Guarda, sono impietrito, a font, sono ingaggiato su 12 progetti strategici, non ho risorse a parte Pacco, che me sta pure lui a schiattà. Ma arrivano 120 mail al giorno, er Blackberry me suona pure a notte, sul pezzo me sta gorfiato al collo, sempre, non ce la faccio più, ce la posso fare. Che non ti capisca, lo dici a me. Guarda, sto seguendo contemporaneamente la pubblicazione del diario di bordo delle vacanze in barca del nostro AD. Lo devo far rilegare, regalare a tutti gli azionisti. Poi ho anche la cura della ristampa del codice etico, carta filigranata oro, sfondo color prugna, un sacco di impegni. Fonta prugna, me bastano i guai miei, lo capisci? Qua il problema è che tutto da fare subito, anzi per prima. Infatti, lo so, questo orientamento sul breve periodo, questa fretta di arrivare, questo bisogno di correre, e poi questi warning continui, non ce la faccio più. Scusa, lo sai che ogni volta che voglio sfogarmi non trovo mai una spalla, una gamba, una mano, un mignolo, una cosa su cui appoggiarmi. Guarda, mi stanno anche venendo due rughette qui. Mo piange, dai, non te butta giù e dammi invece un aiuto a me, come dovemo fare? A chi se potemo rivolgere? Non lo so, proviamo a parlare sul pezzo. A chi? Ma no, assolutamente escluso, no. Non lo so, le risorse umane uccideranno. Ma lascia perdere le risorse umane. Ce l'ho, guarda. Chiamiamo la porta dei rapporti istituzionali. Lui è un uomo di mondo. Casca sempre in piedi. Preoccupato, stanco, sembra finto. Mai, andiamo dalla porta, giusto. Fammo sapere al mondo in che condizioni viviamo. Dai. Sì, voglio anche chiedergli come fa a non sudare. Carissimi, come sono contento di vedervi. Accomodatevi. Buongiorno. Qual buon vento. Buongiorno, caro. Buongiorno. Cara la mia fonte. Luce radiosa di questa azienda grigiastra. Grazie. Come stai, eh? La segretaria mi disse che ci tenevate a un colloquio riservato. Sì, effettivamente. Spero non si tratti di nulla di grave ed eclatante che potrebbe turbare questa meravigliosa giornata. Oh, no, non vorremmo mai turbarla, ma io e il collega Centrifuga siamo qui. Ma stai bene, Centri? Che con questo incarnato verdastro non mi sembra in grande forma. Ha avuto momenti migliori, grazie. Cioè, io e il collega, in grande riservatezza, volevamo chiederle un consiglio, una piccola perla di saggezza. Siamo un tantino sotto pressione in questo momento. Stiamo a scattare, siamo oberati di lavoro, tartassati di richieste dell'azienda, dei clienti, della famiglia, di tutti. È una cosa. In una parola, siete stressati. Sì, insomma. Insomma, ci aiuti a capire come gestire questa intricatissima matassa di attività, di progetti da fare, tutto urgente, Ma no, carissima Marta, è molto semplice. Non dovete fare le cose urgenti, ma solo le cose importanti, particolarmente importanti. Che sarebbe a dì? L'urgenza è figlia dell'impazienza, ma nemica dell'importanza. Fate solo le cose importanti per il vostro, ripeto, vostro lavoro e vostro interesse. Imparate a dire di no. Ma come? Ma è bellissimo. Ma mi ha illuminato. Perciò basta distinguere le cose urgenti da quelle importanti. Ma è chiarissimo. Ma non ho capito allora. Cioè, se o è tutto urgente o è tutto importante. Quindi o devo fare tutto o non devo fare niente. Qui non faccio niente. Allora, no, dico, ma allora, hai 2 ore che ti cerco, sei scomparso. Ah, Marco, stavamo a lavorare, non è buongiorno, che sta. Marco, ma ti trovo proprio in forma, sei l'unico che non invecchia. Sì, ma buongiorno cosa, dove lavorate? Al bar? Way missing, tu stai lavorando ma sei irreperibile, mi tocca anche venirti a cercare a domicilio e mi ricompari dopo 30 minuti e rotti. Comunque, forza, che ho un'urgenza. Codice rosso. O è tutto urgente o tutto importante. Infatti. Non è che si può lavorare così e poi lavorare pure bene. Ma cosa stai dicendo, Centri? No, scusami, in effetti Centrifuga, modo suo, voleva spiegare, no? Scusa, una differenza scusa, ma restane fuori, che questa è una roba tra uomini. Dicevi, Centri? Allora, mo te spiego, una cosa un po' complicata, no? O è una cosa urgente o una cosa importante. Se è una cosa urgente non è importante, ma se non è importante non è urgente. Quindi in pratica, cosa stai dicendo? O tu fai la cosa importante, capito? No, non ho capito. Insomma, damosi una regolata, così non si può andare avanti. E poi dovremmo anche poter dire di no, non impegnarci in cose che non potremmo portare a termine, dare un limite. Sì, sì. Allora ve le dico io le cose che contano. Cioè, A, tutte le volte che voi andate dalla porta, io sono il primo a saperlo. B, la porta è un fancazzista perché ha santi in paradiso. C, voi che non avete santi in paradiso dovete pedalare. Di questi tempi è tutto importante e urgente. E quindi, se malox tempora currunt, correre. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.